Monte Citorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, bentornati a Monte Citorio e dintorni. Stavolta siamo proprio a Monte Citorio con l'onorevole del Partito Democratico Francesco Boccia, al quale chiediamo subito, insomma, oggi si avranno finalmente i presidenti di Camera e Senato? Sì, penso di sì, spero di sì, ovviamente non dipende solo da noi, anche se il Partito Democratico, la Camera dalla quarta votazione al Senato dalla terza, potrebbe anche essere autosufficiente, cercheremo la più ampia disponibilità e convergenza con tutte le forze politiche. Io penso proprio di sì, però aspettiamo che la giornata finisca. Autosufficiente vuol dire che praticamente voi potreste eleggere i vostri candidati sia al Senato che alla Camera, cioè Dario Franceschini e Anna Finocchiaro? Sono i nostri candidati per Senato e Camera, sì, abbiamo i numeri per farlo, non vogliamo fare l'errore del 2006 quando non ascoltammo le altre forze politiche, però nello stesso tempo ci aspettiamo anche proposte da parte di altre forze politiche. Per il momento arrivano segnali molto deboli di disponibilità, vediamo, la giornata non è ancora entrata nel vivo, le votazioni saranno decisive, io penso che su entrambi i nostri candidati potrebbe esserci una convergenza da parte di gruppi parlamentari che ritengono il ritorno al voto con il Porcellum una iattura, come noi. Non mi pare che ci sia disponibilità da parte del Movimento 5 Stelle, vedremo cosa faranno gli altri gruppi parlamentari. Quindi lei dice Monti, magari Lista Civica, la Lega, il PDL. Il PDL addirittura voterebbe due candidati PD a Camera e Senato? No, io penso che certamente la Lista Civica Monti, le forze centriste sono disponibili a votare i candidati del Partito Democratico, probabilmente anche la Lega, ovviamente facendo un ragionamento che è tutto legato al tentativo di cambiare il Porcellum. PDL penso di no, penso che resterà sul no come il Movimento 5 Stelle. Senta, ma è vero che addirittura c'era questa impasse al Senato perché Monti voleva diventare presidente del Senato, però non può perché Premier, addirittura Napolitano l'avrebbe chiamato? Questo rientra nei cosiddetti retroscena che voi giornalisti raccontate in queste ore, non glielo so dire se è vero o no, è senatore a vita e presidente del Consiglio, dubito che voglia anche fare il presidente del Senato. Comunque sarebbe inopportuno. Non sarebbe una buona idea, penso non sarebbe nemmeno particolarmente opportuno dal punto di vista istituzionale. Senta, adesso veniamo un attimo al Movimento 5 Stelle che praticamente ha rifiutato qualsiasi accordo anche per le presidenze di Camera e Senato. Questo inciderà nella formazione del nuovo governo? Beh, mi pare che siano venuti con un unico comandamento, il no. E penso che con il no non si costruisca nulla, si può fare una buona opposizione, non costruttiva ma distruttiva. Speriamo di farli cambiare idea cammin facendo. Però Sel, Nichi Vendola, ha detto ma votiamo il Movimento 5 Stelle e l'ha votato poi il candidato. Come giudicate questa posizione di Vendola, essendo poi voi alleati con Sel? No, è una posizione che dal punto di vista politico comprendo, e dal punto di vista istituzionale è un errore, perché come è noto guidare la Camera dei Deputati o il Senato della Repubblica equivale a rappresentare con la seconda e terza carica dello Stato la Repubblica e soprattutto il processo legislativo del Paese in un momento complicato, in un momento in cui non c'è nemmeno un governo, comunque un governo nel pieno delle proprie funzioni. Ed è sotto gli occhi di tutti che il gruppo del Movimento 5 Stelle, pur essendo un gruppo fatto da giovani, che probabilmente saranno anche di talento, lo dovranno dimostrare qui in Parlamento, alcuni sono anche molto attivi sulla rete, sul web, certamente amano le tecnologie, e dare ad un profilo mai entrato in Parlamento la guida e il timone del processo legislativo di uno dei due rami del Parlamento io penso che sia inopportuno, ma guardi, se lei lo chiede a me, che sono alla seconda legislatura, penso di avere qualche confidenza con i meccanismi parlamentari, le direi che sono assolutamente inadatto e inadeguato. E penso che questo valga per tutti coloro che sono al primo giorno qui. Ecco perché non cerchiamo di non inseguire demagogicamente pezzi di pancia. Il rinnovamento delle istituzioni c'è se noi cambiamo il paese attraverso i provvedimenti che facciamo. E questo Parlamento è già stato rinnovato, il processo legislativo potrà essere rinnovato nelle commissioni, nelle proposte di leggi, nelle leggi che approveremo. È evidente che è già in corso, in atto, ma di qui a ipotizzare, come fa Vendola, che la seconda o terza carica dello Stato possano essere rappresentate unilateralmente, perché qui non c'è il dialogo con il Movimento 5 Stelle, cioè noi lo proponiamo e loro dicono di no. E quando è così non possiamo parlare di dialogo istituzionale, ma di supplica, e con le suppliche non si è mai costruito nulla. Ecco, riguardo al Movimento 5 Stelle, la capogruppo Roberta Lombardi ha detto che questa è stata una giornata inutile, che c'è questo meccanismo bizantino di voto, che tutto si può fare attraverso un voto elettronico, perché si perde così tanto tempo. Questa addirittura giornata costerà 420.000 euro. Ovviamente è una sciocchezza dal punto di vista economico. Io mi auguro che ora, entrando qui e dicendo cose che devono corrispondere a... Sa, quando le dice un parlamentare vengono fuori dalla Repubblica, quindi devono essere almeno attinenti. Quando... È una sparata. Ma è sotto gli occhi di tutti, cioè, non è vero che costa 420.000 euro, semplice. E anche perché una giornata di funzionamento della Camera è legata a dei costi fissi che la Camera ha, anche se è chiusa, voglio dire, i dipendenti, anche se la Camera è chiusa, comunque li paghi. Stessa cosa vale per le utilities, come si dice in gergo, ma non è questo il tema. Io sono d'accordo con lei sulla inutilità di una giornata come questa, ma questa è la democrazia. Se si vuol risparmiare, l'esercito è quello che ci consente di risparmiare di più. Non ci sono i parlamentari, non ci sono dipendenti, i soldati già li paghiamo, basterebbe chiedergli di occuparsi anche del funzionamento della Repubblica e faremmo prima. Ma succede anche questo, lo dico alla Lombardi, che quando non c'è accordo tra le forze politiche ci vuole un giorno in più. È la fatica della democrazia, non piacerà, ma accade questo. Mi pare che la Lombardi sia la stessa che aveva mostrato qualche simpatia per movimenti che facevano della celerità decisionale il punto fermo, e penso che lo dimostri anche questa sua dichiarazione. Quindi insomma le sta dando la fascista praticamente, o comunque dell'antidemocratica. Mi dica lei, se una giornata di confronto politico che non porta ad una decisione viene contestata e si dice che è uno spreco, insomma dobbiamo iniziarci a chiedere che idea di democrazia c'è. E quindi è possibile migliorare e risparmiare. Quello che non è possibile, o almeno che io non consentirò mai possibile, è quello di scambiare i tempi della democrazia come dei tempi inutili e tempi persi, tempi morti. Questo ci porta su un altro versante, ed è un versante forse che piace alla Lombardi ma non a me. Lei è deluso quindi da questo Movimento 5 Stelle, non farete ovviamente un accordo di governo con loro. A questo punto con chi lo farete? È vero che un pochino strizzate l'occhio alla Lega, che magari potrebbe avere i numeri al Senato? No, guardi, io non sono deluso perché non l'ho votato, quindi non è deluso quando vota qualcosa. Però lo considera antidemocratico. Grillo e Casaleggio certamente non sono campioni di democrazia, perché mi pare che siano tuttora insomma proprietari del movimento, o comproprietari, insomma soci nella proprietà del movimento. No, invece ho grande stima, rispetto, ho molti amici che hanno militato nel Movimento 5 Stelle, ho capito la loro reazione rispetto all'incapacità della classe politica italiana e alle responsabilità che una parte della classe dirigente ha avuto e ha. E quindi penso che molti dei ragazzi eletti, dei giovani eletti, siano un patrimonio della democrazia italiana e della Repubblica, però da loro mi aspetto contributi, proposte, mi aspetto una rivoluzione, e per ora ascolto solo dei no, che probabilmente consentono al movimento di avere una posizione in linea con il padrone, e però è difficile costruire qualcosa in questo modo. Però ringraziamo l'onorevole Boccia qui a Montecitorio e vedremo cosa succederà in giornata. Grazie.